lì finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. Sei solo chiacchiere distintivo, chiacchiere distintivo. Sei solo chiacchiere distintivo. Arroncigliano, il terzo. Dai, dai, dai. Eccolo. Ci sono le chiacchiere distintive, appunto, di rosso si illumina. Lo studio della radio più rossa che c'è a Roma. Eppure oltre. Trilli a manetta, sì. Mercoledì 3 di aprile 2013. Secondo me rimbalza quella, eh. Che io sappia, rimbalza. Di là, a pochi metri, a pochi passi da me, qua dietro al mixer c'è un grosso lavorio per mettere a punti il Pocoville vinile. Un formicare intorno ai due piatti della radio. Il che vuol dire che dopo una breve, così, breve incipit da parte del sottoscritto, lasceremo baracca e burattini al fantasma e al magnetizer, terzo incomodo di 25 o'clock. Vediamo perciò un po' di contatti, di riferimenti della radio. Radio Onda Rossa 87,9 della modulazione di frequenza, www.ondarossa.info il sito. Il sito della radio sul quale trovate le corrispondenze, le trasmissioni in podcast che vengono più significative, che vengono appunto caricate sul sito della radio. Ci trovate il palinsesto settimanale di Radio Onda Rossa, ci trovate. Il tastino ascolta la diretta, con la quale è possibile appunto ascoltare Radio Onda Rossa in streaming da ogni parte, raggiunto dalla rete. Oltre che alla vecchia tecnologia, bassa tecnologia della modulazione di frequenza, a cui però siamo onestamente piuttosto affezionati. Oltre che convinti che ruolo e compito di una radio piccola e grande allo stesso tempo come la nostra sia anche quella di stare con chi lotta accanto a lei, una radio che non è un media, non media proprio niente, come diceva quella volta, non credere nei media. Una radio che invece trasmette le lotte, trasmette la vostra vita di tutti i giorni. E che per questo è importante sostenere. Quindi sul sito stesso, andate su Sostieni, troverete tutte le modalità per sottoscrivere per Radio Onda Rossa. Noi vi ricordiamo la solita, quella più antica, quella che ci piace di più, il conto corrente postale 61 80 40 01, da intestare a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00 185, Roma. Ecco, è venuto solo l'ho. E con le coordinate del conto corrente postale vi abbiamo detto anche dove ci troviamo, cioè a San Lorenzo, in via dei Volsci 56, primo piano. Veniteci a trovare dalle 10 alle 19 circa, insomma, l'orario in cui senz'altro ci sarà qualcuno in grado di accogliervi. (0649) 1750, ma quello lo conoscete. Ondarossa@ondarossa.info, la casella di posta elettronica. 25 o'clock 25 scritto a numero, la nostra di posta elettronica. Questi erano i Coffin Cats. Ed è d'obbligo, quindi, andarvi a ricordare tutta la vicenda. I che ha visto venerdì 13 luglio 2012 10 manifestanti ancora che erano rimasti appunto nei lunghi processi da Genova 2001 condannati, 5 di loro condannati a pene molto lunghe, 10 e oltre anni di carcere, fino a 15 anni di carcere, attraverso il reato del codice di eredità fascista, il codice Rocco, condannati per il reato di devastazione e saccheggio. Due di questi compagni, il nostro Alberto e Marina, entrarono da quel giorno in carcere. E lì ci si trovano ancora. E questo fa il paio con i processi che si celebreranno invece fra pochi giorni, proprio poi casomai ne parleremo proprio nella giornata, nelle prossime giornate, per i fatti del 15 ottobre, ben 24-25 persone di nuovo imputate con questa scure che è la devastazione e il saccheggio, e noi amiamo spesso dire chi devasta e chi saccheggia. Chi devasta le nostre vite, le vite di milioni o forse addirittura miliardi di persone, anzi senz'altro. E chi saccheggia le risorse della natura, chi saccheggia il pianeta. E un po' il postulato invece di questo reato è che chi dà un calcio a un bancomat, a una vetrina, viene con un punito con una pena che è più alta di quello che di quella di chi commette un omicidio. Oltre a questo abominio a cui ogni giorno ci ribelliamo, occorre anche sostenere le spese di questi compagni e delle famiglie, questi compagni e queste compagne, perché è facile capire che chi sta in carcere non si può mantenere e non può mantenere magari la propria famiglia, persone care a cui era abituato dare supporto, e quindi oltre alle spese legali proprio spese di mantenimento quotidiano. Quindi i coffin cuts vanno perché appunto il 5 aprile, venerdì prossimo, al Forte Prenestino suoneranno di nuovo. Dopo che suonarono appunto proprio nel luglio dello scorso anno, verso la fine di luglio, un concerto memorabile. Quindi Victor e soci ritornano al Forte. Apriranno la serata Murder Parts e Lubna Barracuda. Suoneranno prima dei Coffin Cuts Clockwork Psycho, che è un concerto per sempre Psycho Billy, che provengono però questa volta dalla Slovenia, quindi vicino di casa, invece da Detroit appunto Coffin Cuts. E infine ancora selezioni punk, garage, rock and roll con Psycho di Tutti i Frutti, Apocalypse a concludere la serata. Noi ci saremo tutti e tutte, quindi fateci compagnia e sostenete con questo la campagna 10%. Vabbè, poi casomai ci risentiamo più tardi, io vi lascio Baracca e Burattini. Non sapevo come lasciarvi la cosa, per cui come appunto introdurre poi la parte che curerete voi, per cui l'ho fatto con una cosa impossibile da mixare. Quindi adesso vedete un po' che vi potete inventare. E su queste note, sicuro dei vostri nervi oramai rilassati, voi che ascoltate, che avete raggiunto uno stato di coscienza superiore con queste note delicate, quindi ci siamo sentiti il banco lasciato, pezzo lasciato dal prof Fefo. Però noi non ce la facciamo proprio ad essere riflessivi. Ci siamo pure un po' stancati di evadere con la mente. Evadi, evadi, ma la rabbia si accumula. Quindi accompagnato dal buon Magnetizers, questa sera ci pensiamo noi. A farvi sfogare musicalmente la vostra rabbia repressa. Quindi andiamo subito a dilaniare la calma di queste note eteree. Ed iniziamo col black metal marcio dei Venom. Il pezzo è Hell Child. Da capo. Quindi Hell Child dal disco Possessed 1985, Venom. e prima di passare ai vinili proposti dal Magnetizer. E visto che tra le altre cose, tempi di merda a parte, manco posso bere birra stasera. Il veleno si accumula. Hai toccato il fondo e hai cominciato a scavare. Eh sì. Se raschia questo fondo. Ed è pieno di marcio. Occhio. E quindi è proprio con questo spirito di rabbia la rabbia di voler fare qualcosa, di voler cambiare qualcosa. E dai Venom passiamo ai Mayhem di Death Crush. Cielo. Il 15 ottobre 2011, come a Genova nel 2001, eravamo 300.000 a gridare per le strade di Roma la nostra rabbia contro le politiche. Se mi ricordo di togliere l'automatico, magari. E quindi da capo anche i Mayhem. Thank you. E questi erano i Mayhem con Death Crash 1987. Smiling with an axe in my hand. Perché ancora non sono sicuro se la calma è la virtù dei forti o è la virtù dei morti. E andiamo a cominciare col primo vinile proposto dal Magnetizers questa sera. Così qua e così qua. Che ci abbiamo pronto nel piatto? A noi piacciono i prodotti tipici locali, giustamente. Per continuare sulla violenza tipica locale abbiamo i Vesper, che nel 2010 hanno fatto un album molto carino che si chiama Possession of Evil Will. Altro che andare in giro il sabato in cerca del formaggetto, no. No, non è roba da fiera gastronomica, sicuramente. Ci spariamo l'opener. Sì. Narcotoxic Overdose. Problemi tecnici ovvi. Assuming I'm the way. Quindi questi erano i Vesper. Da dove? Roma. Prodotto tipico Roma o Lazio. Belli maligni e magnati. Molto maligni, album del 2010. E che ci fai sentire adesso, caro fantasma? Questo fantasma così irrequieto. Irrequieto, sì, carico di ira. Troppe catene. Ci andiamo ad ascoltare. Già va sotto il pezzo Descend dei Triptychon, l'ultima creazione di Tom Warrior. Quindi appunto, come una discesa all'inferno, ce la rifacciamo tutta da capo. Thank you. national tavern soup base. Salt, rice noodles, cilantro. Questa ovviamente la dedichiamo a Radio Possum. Perché questa era la prima ricetta di Vegan Black Metal Chef. E quindi per confermare il concetto che avevamo detto qualche tempo fa, che il veganesimo è satanico. E quindi il testo di questo pezzo è una ricetta. Perché lui è uno chef. Ci siamo ascoltati gli Audio Pain dalla Norvegia, un acquisto fatto nella mia ultima trasferta di Oslo. Ho preso questo split 45 giri con i Necromanteon, che sono un altro gruppo norvegese di questi cattivissimi che vanno alla grandissima. Bene, bene. Cioè, ma anche loro svedesi? Norvegesi. Norvegesi. Allora, il 99% dei gruppi che abbiamo messo negli ultimi mesi sono svedesi o norvegesi. Questo freddo glaciale che ci ha fatto compagnia durante questo inverno di merda, che speriamo finisca il prima possibile. Pensavamo appunto agli svedesi, gli scandinavi, che con quel tempo di merda non escono mai di casa. Cioè, almeno. E scrivono disconi della Madonna. E ora ci ascoltiamo i Celtic Frost da Morbid Tales, dischetto che apriva così. We'll be right back. questi erano i Celtic Frost da Morbid Tales. E già abbiamo pronto sul piatto Un discone. Cos'è Magnetizers? I Sancta Sanctorum. Un'opera della Black Widow Record, che a noi piace assai. È una casa discografica che produce tra i maggiori magnati al mondo, per cui grande stima da parte nostra. Progetto di Steve Sylvester e Thomas M. Chase, a cui ha collaborato anche su un brano. Ricordiamolo dei Death SS, per i magnati che non lo sapessero. C'è anche una collaborazione di un nostro amico BJ The Doomraiser su una traccia di questo disco. E ritorna un po' alle sonorità antiche, ci ricorda un po' questi Death SS antichi, però più, ancora più progressive forse a tratti, ma sempre malati. Sempre malati e magnati. questo era dal vinile Santa Santorum. E noi rimaniamo in Italia. E questo è un disco del 1993. L'unico disco dei Nero Orgasmo. Siamo quei momenti di fredda lucidità in cui capisci che sei schiavo e non riesci a sopportare una vita sprecata, una recita banale. Nero Orgasmo. Sprecata, una recita banale, ma il cuore in tuo sforzo non riesce a controllare. erano i Tombstones, l'album Preaching Praying Guitar Playing. Complimenti per la memoria. Per la pronuncia. Sì, anche perché sentirete sicuramente il gracchiare e i suoni, insomma, che ogni tanto scriccherano, e questo è dovuto al fatto che anche stasera, come di tanto in tanto, si ritirano fuori, si rispolverano i giradischi e si mettono i vinili. Cosa che ci promettiamo di ripetere nel tempo. Assolutamente, con materiale sempre più magnato. Ovviamente. E adesso ci andiamo ad ascoltare una coproduzione di Radio Onda Rossa. Loro sono gli Obophobic. Del loro Portami Lontano Da Qui. Questa è la seconda traccia, ricominciamo da qui. Sono gli Obophobic, che poi con il professore ci stiamo adoperando. Cerco di rivedermi dentro per fare un'intervista. Non sappiamo ancora quando, può darsi il prossimo mercoledì. Anime perdute nella peggior cattività, e adesso piangi perché subiamo la e sto dischetto lo potete trovare venerdì al banchetto della radio. E ci teniamo a dire che saremo presenti. Quindi ci riproviamo a cambiare disco. Maledetto automatico. Quindi rimaniamo in Italia, loro sono gli Scum of Society. Bella Alessio. Europa Unita. Quindi ispirati dagli Scum of Society, ci andiamo ad ascoltare il disco solista di Alessio Sanniti. E questo è il pezzo Quindi ci ascoltiamo il pezzo di apertura che è Projection. We'll be right back. E questo era il pezzo di apertura dell'ultimo disco di Alessio Sanniti. E mentre ci gustiamo ancora un po' di sano fruscio, e vi andiamo a riproporre Danzig. Questa volta dall'ultimo lavoro Death Red Sabaoth. O qualcosa del genere. Questa è la sesta traccia, Death Red Moon. Luna rossa, luna rosso sangue. Oh, and all that's parte sparato, E sì, perché di tanto in tanto, a forza di mandare dischi di gente lontana nello spazio e nel tempo da noi, ci piace di mandare invece della buona, sana autoproduzione o bassa produzione. Delle nostre parti, di amici, gente che ci viene a trovare, di compagni e compagne. E questi sono i DDM. Chissà che fine ha fatto questa traccia, la presentarono proprio qui a 25 O'Clock. Se sta per essere inserita nel progetto nuovo di DDM. Comunque un salutone a Mimmo e da capo. Sguardo mi concedo un rimpianto. E quindi questi sono gli avvelenatissimi DDM. E non possiamo abbassare il tiro. Quindi ci andiamo ad ascoltare da un disco del 1991. Loro sono gli Unleashed, Before the Creation of Time. Signore, temo di doverle chiedere di uscire da questo negozio. Chi diavolo sei tu? Mi chiamo Ash. Reparto ferramenta. Thank you. questo pezzo ovviamente lo dedichiamo ad Elettrodo. Cioè la sensazione che volevamo ricreare, che si è rotto il trasmettitore, era quella, che si è rotto qualcosa. Però insomma, invece non vi preoccupate, siamo noi che non siamo buoni. E sappiamo farlo in maniera molto credibile. Egregia, sì, siamo bravi in questo. Siamo degli ottimi sbagliatori. Vabbè, ci abbiamo pronto. Nel lettore di sinistra. Da Roma i Destroy Your System. Dal loro disco Senza Vie di Scampo. Che apre con Violenza Urbana. Signore, temo di doverle chiedere di uscire da questo negozio. Che diavolo sei tu? Mi chiamo Ash. Reparto ferramenta. Ti succhierò l'anima! Vieni a prenderla. Resta urbana, da due strade, resta urbana, tanta vacanzate, resta urbana. Questa era un'altra proposta del Magnetizers, un vinile. E che vinile? Yellowcopters Inclusive, uno split del 98. E la cosa figa è che gli Yellowcopters, quelli che ci siamo sentiti, erano due cover degli MC5 e dell'Ina Skynard. Perché andiamo su le radici del rock and roll più selvaggio e ubriacone. Ed poi, altro. Un ascolto che va apprezzato maggiormente perché il Magnetizers ci ha messo 3 ore a beccare la traccia sul vinile un po' bianco. La sul vinile, il vinile bianco, e più tra l'altro a cercare di regolare il mixer in maniera che uscisse un suono che ricordasse quello degli Yellowcopters. Sì. C'è stato qualche problema di preamplificazione, siamo andati sì, un po', ma poi abbiamo post amplificato, è uscito un suono da paura. Comunque una traccia dietro all'altra si è fatta l'una e praticamente manco se ne siamo accorti, perché vai, una roba tira l'altra e niente, poi alla fine trionfa rock and roll, appunto, e cavalchiamo il dragone. Sì sì. Quindi continuiamo con un po' di rock and roll. Pezzo un po' vecchiotto. She walks by, the breath of pink chalk fills your eye. Hands off and just look inside. She's a whistle bait, she's a one for me. She's a whistle bait, whistle bait, whistle bait. She's a one for me. For me. devastano le nostre vite, saccheggiano il nostro presente e futuro. Il 15 ottobre 2011, la repressione colpisce tre appuntamenti. Il 4 aprile, cioè oggi, alle ore 9, presidio sotto il Tribunale di Roma per sostenere le compagne e i compagni che vedranno iniziare il processo per il 15 ottobre 2011. 11 aprile 2013, per sostenere i compagni di Teramo per il Tribunale del Riesame, e 12 aprile 2013, assemblea pubblica per la libertà di movimento, Volturno occupato, ore 10. Le compagne e i compagni di Roma, Radio Onda Rossa. ...87.9 della modulazione di frequenza, 25 o'clock. Il delirio onirico in sottofondo. Ma c'è pure il delirio delle nostre, balzi, da un genere all'altro, da una cosa all'altra. Voli pindarici. Senza gabbie. Sì, anche cosa a casaccio si potrebbe così apostrofare. I migliori sono i Kamagen automatici. Che a proposito, l'1.7. Questa è Radio Onda Rossa 87.9. Dicevamo testè. La trasmissione è 25 o'clock. Anche questo lo dicevamo. Ed andiamo a ricordare per i vostri trillini. E Kamagen, appunto. Che c'è un numero, c'è un numero di telefono. E quindi 06 49 17 50. Lo sai, sì. E dai pufferini, rapidamente, a cosa passiamo, Magnetizer? A qualche panchettone antico. Abbiamo qui che friggono e fremono gli Stiff Little Fingers. Oh, wow, wow. Come si diceva prima, appunto, essendo un disco punk, non c'è scritto un cazzo sul vinile, per cui non si sa che anno. Quindi, è Stiff Little posso Finger. Dire che il brano è... Basta quello. Il brano è Gara Gara Way. Accontentatevi. Thank you. ed il prossimo pezzo lo dedichiamo al Banana. Angelic Upstarts, Never Give Up. Sì, trillano qui a Radio Onda Rossa. Eh sì, perché poi che dovete fare? Qui c'è un filone, un qualcosa di DNA che coi skinhead c'è sempre a che fare. Quindi, per quanto non lo siamo, almeno volontariamente, poi per quanto riguarda le teste rasate, diciamo, è un fatto un po' più meno ricercato, meno voluto. Nel però, DNA. Dai, Angelic Upstarts, da capo. Time. E quindi da Power Trip. Loro sono i Monster Magnet, con alla voce Dave Windorf. Che non si toglie mai prima di andare a dormire né stivali né occhiali da sole. E noi dai megalomani Monster Magnet facciamo un altro salto. E loro sono i Goat. E questi erano i Goat con il remix di Run to Your Mama, pezzo dei Teeth of the Sea. Sì, ci diceva Magnetizers, ulteriormente remixato con un pezzo degli Electric Moon che abbiamo mandato sotto spontaneamente, sì, così ha germogliato sotto il pezzo. È lo spirito delle macchine, perché le macchine hanno uno spirito comunque malgrado noi, e alle volte agiscono modo proprio producendo anche delle cose interessanti. Ce ne siamo accorti dopo 3 minuti. Sì, macchine fuori controllo, sì, vabbè, sì. Va bene così. Hanno un loro gusto proprio, comunque. Certo. E rimaniamo in tema di macchine, appunto con i Teeth of the Sea. We'll be right back.

contestualizzano bestemmie, e nella guerra per la pace vince sempre il voto moderato. Fate una cosa bella, ma bella davvero, la prossima volta che dite una stronzata, ammazzatevi da soli. Anche di me stesso, che mi conosco fin troppo bene, ho ancora tutta la vita davanti. Che cazzo faccio di qui fino alla pensione, che poi mica me la danno, e comunque non avevo le carte. Mi sono rotto il cazzo anche di te, che per fortuna non ti conosco, e forse sei la speranza. Giuro che se ti incontro, giuro che se ti incontro, finisce male. Eh sì, diceva un vecchio slogan che strillavamo tanti anni fa, creare e organizzare la nostra rabbia. La rabbia ce l'abbiamo, la dobbiamo organizzare. Assolutamente. Vabbè, insomma, 25 o'clock finisce qui quando sono ormai le 2. Siete stati all'ascolto di Radio Onda Rossa. Vi ricordiamo che le programmazioni riprenderanno domani mattina con la rassegna stampa. I redazionali della mattina, il GR dell'ora di pranzo, lo spazio comunicazione, e poi via via visionari della missione sul cinema, e via via tutta la scaletta del giovedì giovedì pomeriggio e notte di Radio Onda Rossa. Ci vediamo ai Coffin Cats venerdì. Ci vediamo venerdì al Forte a vedere i Coffin Cats e dintorni. Il nostro saluto più caro va a tutte e tutti coloro che sono costretti a condizioni di limitata libertà personale, il carcere, la latitanza, la clandestinità, gli arresti domiciliari, i famigerati CIE, gli obblighi di firma, insomma un sacco di roba fatta apposta invece per così, per chiudere in gabbia la nostra rabbia. Vi lasciamo in compagnia della compagna automatica e noi ci sentiamo mercoledì prossimo. E andiamo a salutare sotto la luna comunista. Bella così, pure il Magnetizer. Bella Magnetizer. Alla mia prossima comparizione. Grazie a tutti e tutte. Sister.